strada è una combinazione strana. Con le foglie gialle a terra ogni passo che mi ferma. Ogni respiro che mi spinge su di ciò è infame. L'asfalto sotto i piedi assorbe il lurido segreto dell'esistenza. Persone come me, sporche o stanche, veloci o attonite. Decidere di viaggiare e accollarsi una malattia, farsi divorare per toccare l'aria impalpabile. Non serve vedere, non serve masticare, non conta guardare, non serve sentire l'aria. La realtà si fa ingoiare nuda, senza condimento, piatto succulento. Viaggio a bocca aperta nella corrente, inghiotto tutto quanto, qualcosa ne fa.